se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. So perfettamente il rischio che corro questa mattina. Uscirò da questa trasmissione orrendamente Nicoletti carbonizzato, ma corro volentieri questo rischio. Oggi voglio esprimere quello che è un gesto vendicatore di giustizia. Voglio che oggi qui si possa consumare il giusto oltraggio per le buone ricette della nonna. Uccidiamo il mito dei rimedi naturali. Ciao a tutte, allora oggi volevo fare un video sulle ricettine naturali, per cui un proseguimento del video dei rimedi della nonna, poter sostituire con degli ingredienti che abbiamo in casa i normali prodotti, cioè poter trovare delle alternative naturali che comunque sono anche divertenti e facili da preparare. Questa volta però volevo parlarvi dei rimedi per i capelli, partendo dal presupposto che io sono un vero disastro con i capelli. Online ho trovato una ricettina che si fa appunto con l'olio essenziale di rosmarino ed è una miscela di acqua in cui sono disciolte alcune gocce di olio di rosmarino, all'incirca in una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, acqua distillata, 5 gocce di olio essenziale. È necessario sbattere la miscela in quanto ovviamente l'olio non è solubile in acqua. E questa lozione serve. Questa terrificante maniera di glorificare il luogo comune persegue anche nelle più avveniristiche maniere di comunicare il proprio pensiero. Su YouTube c'è un'infinità di persone che deve comunicare al mondo i buoni, sani, naturali rimedi della nonna. Io ho un ricordo terrificante dei rimedi della nonna. Quando ci sbucciavamo le ginocchia ci faceva imputridire le ferite, faceva degli impacchi, poi li copriva con il cellophane, quindi giravamo con questa sorta di cadaveri alle ginocchia. Alla stessa maniera, quando ci scottavamo con il sole, ci scottavamo con l'olio bollente, ci scottavamo con le marmitte dei motorini nell'età più avanzata, sbatteva la chiara d'uovo e ce la metteva sopra. Non serviva assolutamente a nulla. Poi esistono un'infinità di altre orribili maniere: mettersi l'olio d'oliva in testa, farsi degli impacchi con le frittelle di schifosissime materiali, le fette di cipolla, il succo di limone, gli zuccherini imbevuti di schifezze. Insomma, i rimedi della nonna dovrebbero essere una sorta di immarcescibile ed eterno rimedio a sprezzo di ogni scientificità, a sprezzo di ogni ritrovato della ricerca scientifica, e tutti siamo convinti, per il solo fatto che appartenga a una sorta di saggezza popolare lontana, sia preferibile a ogni preparato che è frutto di anni di studi, laboratorio e di ricerche. Ma forse a tutti noi piace cullarci in questo luogo comune e piace abbandonarsi a questo nostalgico senso che il rimedio alla nonna, guardate, il rimedio alla nonna è applicabile ad ogni categoria dell'umanità e dell'umana esistenza, non soltanto alla farmacopea. Esiste il rimedio alla nonna per ogni nostra espressione. Beh, questa mattina sono qui per ascoltare i vostri rimedi alla nonna. Facciamo un pubblico auto da fé, facciamo una confessione generalizzata. Quanto siamo ancora schiavi di questo pregiudizio oscurantista che il rimedio alla nonna sia preferibile a qualsiasi altro rimedio per la nostra infelicità? 800240024. Ciao ragazze, voglio provare con voi l'olio indiano. Per la sua proprietà appunto di pulire a fondo la pelle, di togliere i punti neri, anche se voi non sapete avere i punti neri, questo vi toglie i punti neri. Sarà un video un po' raccapricciante. Abbiamo bisogno di prenderci cura della nostra pelle, assolutamente. Quindi andiamo a preparare una maschera a base di latte e miele. Cosa c'è di meglio del latte e miele? Niente. Dunque, 2 cucchiai di latte e 2 cucchiai di miele. E lasciamo che insieme diventino una soluzione, una miscela unica, molto. Ma il latte e miele servono per essere ingeriti, non per farsi gli impacchi addosso. Quante persone sono rimaste ustionate l'estate per essersi cosparsi del rimedio della nonna fatto con il latte di fico che serve per abbronzare? È una deleteria tradizione orale che fa sì che si procurino delle ustioni irreversibili. Ma quanti hanno fatto il bidet con il sassofrasso? Quanti hanno intinto i loro piedi nei sali inglesi o qualcosa del del genere, poi non sapendo bene cosa fosse, in certe latitudini, in certe epoche oscure, mettendo i piedi nel sale grosso da cucina, che non so a cosa potesse servire. Beh, questa mattina siamo per darvi una parola finale rispetto a queste terrificanti maniere di rendersi infelici, di massacrarsi il fisico e di vivere nella superstizione che il rimedio della nonna possa risolvere ogni nostro problema. 800240024. Donna Isabella, regina d'Ungheria, di 72 anni, inferma nelle membra e affetta da gotta, ha adoperato per un anno intero la presente ricetta donatale da un'eremita che ella mai conobbe, la quale produsse su di lei un così salutare effetto che guarì e riacquistò le forze, sino al punto da sembrare bella a qualcuno. Il re di Polonia la voleva sposare, ma Donna Isabella rifiutò per amore di Gesù Cristo. Per ogni litro di acqua distillata prendete 250 grammi di fiori di rosmarino. Ponete tutto in un vaso ben chiuso per lo spazio di 50 ore. Poi distillate con un alambicco a bagnomaria. Prendete una volta alla settimana 5 grammi di questa pozione con qualche altro liquore o bevanda o anche con carne. Lavate con esso il viso ogni mattina e stropicciate con essa le membra malate. Questo rimedio rinnova le forze, solleva lo spirito, pulisce la midolla, dà nuova lena, restituisce la vista e la conserva per lungo tempo. È eccellente per lo stomaco e il petto. Io non voglio negare che esistano delle proprietà medicamentose nelle erbe, ma una normale massaia, un tranquillo padre di famiglia, il rosmarino lo usi per infarcire l'arrosto, non vedo perché deve fare l'infuso con il rosmarino. Queste sono cose che appartengono all'erboristeria, alla scienza per l'estrazione degli oli essenziali dalle piante. Non si illuda che ognuno a casa sua può fare queste cose, o forse sì. Quest'ultima ricetta della regina Isabella è tratta da un libro che è appena uscito per Sironi Editore, Naturale e Bello, la scienza dei rimedi naturali di bellezza. In studio abbiamo, anzi al telefono abbiamo Doriana Rondino, che è una biologa, una giornalista scientifica che ha curato questo libro. Doriana Rondino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. La mia è una posizione talebana perché devo naturalmente provocare la reazione del pubblico, ma esiste una possibilità di scampo per il rimedio della nonna o è giusto che lo mettiamo in soffitta assieme ai vecchi ricordi di famiglia? Ma no, non, io direi che è una tradizione che tutto sommato è quasi innocua, diciamo, se non provoca danni come quelle ustioni di cui menzionava prima. Certamente ci sono studi che dimostrano che i principi attivi naturali sono effettivamente attivi e funzionali. Certamente lo sono nelle condizioni di laboratorio, che spesso e volentieri sono molto differenti poi dalle condizioni che uno si ricrea a casa facendosi da solo la sua cremina, piuttosto che comprando una crema che dichiara di avere tale erba o tale frutta, ecco. Quindi Daniele Rodino, nasce tutto da una poca fiducia di ciò che ormai offre il mercato con un'etichetta. A volte basta semplicemente mettere una bustina di cotone naturale, un tappeto di legno con la cera lacca, un vetro che sembra appena soffiato, un'etichetta scritta con la penna d'oca per dare una sorta di alone di naturalezza a un prodotto industriale. Io ho paura che si stiano un po' approfittando di noi, proprio in quest'ottica del verde, del più bello, più sano, più ecosostenibile, ecocompatibile. Sì, dobbiamo sempre essere belli, secondo chi ci vende le creme, e però questa volta lo dobbiamo fare, oggi di questi tempi dobbiamo farlo di nuovo con un ritorno al naturale, ecco. Bisogna quindi stare attenti a non farsi fregare dalla confezione. Ecco, adesso cominciamo, visto che vedo che l'argomento ha appassionato i nostri ascoltatori, a fornire una serie di paradossi extraterrestri di rimedi della nonna che provengono da ogni latitudine e da ogni paese. Stefano, buongiorno. Pronto? Stefano. Sì, buongiorno. Confessi, lei cosa fa per rimedio contro la febbre? No, io premetto che sono scettico nei confronti dei rimedi della nonna, in quanto sono più... Però ci ha provato. Sì, no, ti ho provato perché io ho abitato 2 anni in Russia per motivi di lavoro e mi è venuta la febbre e mi è stato consigliato da mia moglie, che poi è russa, questo rimedio della nonna. Allora in Russia fanno questi cetrioli sotto sale, diciamo, sono in salamoia. Oddio mio, e dove bisogna metterli? No, praticamente quando si ha la febbre bisogna tagliare questo cetriolo a metà, sono cetrioli grossi, vanno messi sotto i piedi e poi bisogna avvolgere tutto nel celofan, diciamo. Cioè lei cammina come Frankenstein, con dei piedoni cellofanati con i cetrioli sotto. No, praticamente non si può camminare, cioè bisogna stare a letto, con i piedi fasciati. Col cetriolo sotto la pianta. Sì, sì. Però guardi che funziona. Io sono scettico, sì, funziona, perché la febbre passa, perché dopo un po' di ore, diciamo, il cetriolo si è cotto, sì, e però la febbre va via. E quindi si può mangiare? No, meglio di no, perché è stato sotto i piedi, quindi... Doriana Rodino, ci sono... è caduta un attimo, adesso vediamo. Allora, Stefano ha dato già una prima traccia indelebile di ciò che può essere frutto anche delle contaminazioni culturali. Una moglie russa che, quando lui è febbricitante, veramente gli ha una maniera di imbalsamargli i piedi con del cellofan, con sotto dei cetrioli sott'olio. Se Doriana Rodino è ritornata in linea, buongiorno, c'è ancora? Sì, buongiorno. Ecco, non so se ha ascoltato il nostro ascoltatore. Dunque, ha una moglie russa. Quando lui ha la febbre, la moglie lo stende a letto, gli mette dei cetrioli sott'olio sotto i piedi e fascia tutto con il cellofan. Dice che passa. Ma passa probabilmente perché sta fermo nel letto, in questo modo non si può più muovere. Ecco, se ci mettesse delle melanzane sarebbe la stessa cosa. Penso proprio di sì. Al massimo l'unica cosa che potrebbe fare bene, che è anche un po' considerato un rimedio nella nonna, è il vino caldo. Sì, ma è una vecchia storia il vino caldo, sì, con le mele dentro, le cose. Ma no, soprattutto, no, anche soltanto vino, perché proprio è un, comunque contiene dei vasodilatatori, contiene il resveratrolo, che è leggermente più, diciamo, antimicrobico, antinfiammatorio, vasorilassante, migliora la circolazione, quindi tutto sommato un fondo di verità c'è nel rimedio del vino caldo. Certamente anche qui gli esperimenti che hanno fatto poi in laboratorio, i ricercatori indipendenti dicono che funziona davvero, ma funziona il resveratrolo in quantità che sono 50-60 volte maggiori di quelle che si trovano in un bicchiere di vino rosso. Ecco. Andiamo avanti perché ce ne sono delle belle. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Confessi, allora lei cosa si è fatto fare? Mia nonna aveva uno splendido rimedio per curarmi le scottature che prendevo al mare da piccolo. Praticamente mi usava come un'insalatiera, mi cospargeva di olio d'oliva e poi, non paga, tagliava dei pomodori e ci metteva sopra anche i pomodori. Io mi sentivo un'insalata, ovviamente le scottature non passavano, però almeno profumavo sia di olio d'oliva che di pomodoro. Ma perché mancava il basilico, mancava l'aceto, mancava il mais, mancavano tanti ingredienti. Il basilico e aceto fosse un'altra tradizione, era siciliana, ha detto che da piccola si usavano queste cose qua, magari spostandosi in Campania si sarebbe usata anche il basilico e la mozzarella per renderla un po' più saporita. E non aveva nessun tipo di vantaggio, naturalmente. Assolutamente no, tranne il bruciore spasmodico, perché l'olio sulle scottature non è proprio una cosa simpatica. Sì, anche a me mettono l'olio sulle scottature, l'olio d'oliva con una penna di gallina lo cospargevano, sì, così. Ma aumentavano anche le scottature. Ah, ma cioè, naturalmente. Tantissimo. Si allargava, diventava un'ustione indelebile, lasciava delle tracce. C'erano altri rimedi che lei ricorda, altre torture di sua nonna, a parte questo? Ma no, che mi siano rimaste scritte così nella memoria col dolore che ho patito all'epoca, no. Vabbè, questo sì, almeno ha un ricordo indelebile di sua nonna. Diego, buongiorno. Diego. Buongiorno, buongiorno, salve. A lei cosa facevano? No, allora io prima vorrei premettere che io sono un po' refrattario a usare le medicine, cioè non è che non le uso, se servono, però cerco sempre di evitare, no? Non so se mi spiego. No, ho capito, so perfettamente. Ok, sono un po' anti-medicina. Allora, è successo che c'era un dito che si era gonfiato, una specie di frunco, non so, e non guariva. Io naturalmente c'era da prendere antibiotici così, io però prima ho seguito il consiglio di una signora che conosco, che questa è un po' un'esperta, lei coltiva le piante, insomma, certo. E mi ha consigliato di provare con l'acqua e il sale, acqua calda col sale, e io mettendo questo dito, facendo come diceva lei, di sera facevo così, in 2 o 3 giorni mi è passato completamente, guarito. Sì, l'acqua sale imputridisce praticamente qualunque cosa ci si metta dentro, quindi ha un effetto disinfettante. Quello che ha. Però il dito non si è imputridito, adesso ce l'ho ancora, funziona bene. No, ma momentaneamente, c'è una sorta di putridume. Doriana Rodino, l'acqua e sale, che è rinomata come rimedio, forse una base scientifica c'è in questo tipo di... Ma c'è certamente, perché comunque il sale diciamo che provoca una sorta di raggrinzimento delle cellule facendo uscire proprio l'acqua, un effetto di osmosi, per cui va anche poi a inibire e ad uccidere tutte le cellule batteriche che di solito si formano e proliferano in questi foruncoli purulenti che si possono formare. Che schifo! Sì. Ma non ci sono delle medicine a conce che evitano questa sorta di memento mori anticipato guardandosi il dito che putrefa? Ma sì, certamente ci sono i soliti disinfettanti. Ma se uno vuole seguire il metodo della nonna, deve metterlo nell'acqua e sale. Sì, naturalmente deve pensare che risolverà la cosa con molta più lentezza e magari non la risolverà, perché chiaramente senza una diagnosi precisa, se fa tutto in casa, magari rischia di vedersi davvero imputridire il dito. Paola, buongiorno. Buongiorno. Niente, io le volevo dire, quando ero piccola, mia nonna, quando ci veniva la congiuntivite, faceva bollire il riso e con l'acqua del riso ben densa ci faceva gli impacchi agli occhi e ci passava la congiuntivite. E con il risotto avanzato? Lo buttavamo ovviamente. Giusto, naturalmente, serve a quello. E poi una cosa invece schifosissima che ci faceva una piccola campagna. Quando avevamo le ferite... Guardi, c'è una sorta di... Pronto? Censura telematica. Ecco, adesso funziona. Dica, ripeta. Quando per esempio ci facevamo qualche ferita perché si cadeva dalla bicicletta oppure qualsiasi cosa. Sì. E si andava dove c'era il lettabaio. Sì. Si metteva la ferita a contatto del lettabaio e passava tutto. Cioè con la cacca di mucca funzionava? Sì, quella fermentata. Ah, cioè è la migliore naturalmente. Doriana Audino, non c'è qualche pericolo di infezione mettendo del prodotto di concime organico sulle ferite? Ma io direi che la signora è stata molto fortunata, ecco, perché io non lo farei mai, sinceramente, con tutti i batteri che circolano nell'etame fermentato. Sì, perché nell'etamaio... Sono vissuto in campagna, c'è liquame dei maiali, delle galline, delle cose terrificanti, veleni puri. Sì. Cioè, inquinano le falde acquifere, tanto penso su una ferita aperta creano dei danni irreversibili. Devo avere dei bei anticorpi. 800 24 0024, andiamo avanti. Quella che rischiava all'inizio di essere una sorta di clone malefico, una Nicoletti carbonizzazione impropria, in realtà sta diventando un profondo disvelatore di quelle che erano le torture sottili che le nonne infliggevano ai loro nipoti. Luciano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ritorna una new entry gradita, che è quella del cetriolo. Lei come lo applicavano? No, io confermo quello che ha detto quel signore che è intervenuto prima. Che sono convinto che il cetriolo, mettendolo sotto i piedi, siccome che la pianta dei piedi riflette tutto il corpo, può assorbire il calore che naturalmente tramite l'intestino, che è la base principale dove si forma la febbre causata dalla malnutrizione, può essere il cetriolo che abbia assorbito il calore emanato dalla febbre e avere avuto questo giovamento. Ma quindi secondo lei c'è una base scientifica sul cetriolo sotto i piedi? Scientifica è una base naturale. La natura è legata un po' alla scienza, però io credo più nella natura che nella scienza, non quella diciamo evoluta all'eccesso, quella giusta. Comunque io volevo dire un'altra cosa, io sono 30 anni che mi curo da solo, ho 62 anni e le posso garantire che da quando io ho scoperto la medicina alternativa il resto non mi interessa di considerarlo. Avrebbe un'altra ricetta paragonabile a quella del cetriolo sotto i piedi? Ma che è paradossale, ma in realtà efficace. Allora, io 8 mesi fa ho letto sul giornale l'eretico della medicina. Io già seguivo un'alimentazione quasi vegetariana e mi ha fatto scoprire di nuovo di mangiare la carne. Le spiego come. Allora, io da 6 mesi a questa parte prendo 1 grammo ogni 10 kg di peso del mio corpo di vitamina C, perché pare che l'uomo e la scimmia non producono vitamina C. Certo. Io ne assorbo circa 10-12 grammi al giorno di vitamina C, che tramite questa persona che ho conosciuto, e vi posso garantire che io mi sento un altro. Poi ho ripreso a mangiare la carne, non la mangio cotta, la mangio cruda, perché i nostri avi pare che quando sono scesi sulla terra mangiavano solo verdura, radici, frutta, via discorrendo. Ma dovrebbe andare in giro a sgozzare caribù e cinghiali e scuoiarli sul posto e mangiarli con i suoi denti, lo fa come no, il nostro. No, io mangio carne di tacchino, pesce fresco, crudo. Sempre crudo. Quindi un sushi praticamente. Vabbè, diciamo che siamo in molti a praticare questa. Doriana Rodino, io vedo che il fascino del naturale sta mostrando il suo vero volto. Siamo partiti in una via di mezzo fra il dileggio e la perplessità, ma ora viene fuori in tutta la sua crudezza. Amo la natura e non amo la scienza, come se ci fosse un ordine naturale delle cose che non è scientificamente comunque commensurabile. Ma mi sembra che poi, come in tutte le cose, arrivare ai fondamentalismi sia un po' eccessivo. Dire che una via di mezzo sia nell'alimentazione che nella cura del sé sia una cosa ideale. Poi la cottura dei cibi è nata per motivi igienici soprattutto, quindi direi che va bene anche il cibo crudo, però la carne sappiamo che può dare veramente gravi malattie. Se non ultima battuta prima dell'informazione della borsa sul potere assorbente del termoassorbente del cetriolo, ha qualcosa da dire? Guardi, sono veramente impreparata. Non so, impreparata, sì. Melog 2.0. Per capelli nutriti e brillanti occorrono 150 ml di olio extravergine di oliva e 8 gocce dei seguenti oli essenziali: rosmarino e basilico. Versate l'olio in una bottiglia di vetro scuro, aggiungete gli oli essenziali, tappate e agitate. Applicate l'olio da 1 a 3 cucchiai a seconda della lunghezza sui capelli asciutti e distribuitelo uniformemente dalle radici alle punte. Massaggiate per un minuto, avvolgete i capelli in un asciugamano e lasciate agire per circa mezz'ora. 800240024, stiamo oggi celebrando l'omicidio rituale collettivo dei rimedi della nonna. Altro che uccidiamo il chiaro di luna, uccidiamo il rimedio della nonna. Mi sono ispirato, e questo brano è tratto dalle pagine di Naturale Bello, la scienza dei rimedi naturali di bellezza, Sironi editore, a cura di Doriana Rodino. Vi leggo qualche commento degli ascoltatori che seguono su Facebook, quindi persone che hanno una manualità e una facilità di connubio con la scienza e la tecnologia, ma hanno anche loro delle ferite, ahimè, incurabili, date appunto dai rimedi della nonna. L'unico rimedio naturale che conosco è l'artiglio del diavolo, mi dice Daniele, antinfiammatorio. Mia nonna forse era anomala, non ho mai usato un rimedio naturale, il suo massimo era propinarmi un'enorme tazza di caffè e latte. Daniela, da ragazza ho avuto un periodo di infatuazione e mi impiastricciavo di pozioni a base di uova, insalate e frutta. Sempre Daniela, la mia colf rumena, quando sente arrivare il raffreddore si mangia pezzi di aglio crudo, consiglia a me di farlo ma mi rifiuto. Poi Antonia, chissà se l'abbondante decotto di papagna è considerato un rimedio della nonna. Lo davano ai bimbi irrequieti e piagnucolosi, ovviamente funzionava. Papagna, cos'è? Il papavero mi sembra che sia. Dare il papavero bollito ai bambini, non so quale possa essere l'esito. Anna, che noia mortale le robe delle nonne, torta della nonna, marmellata della nonna, lenzuola della nonna, antiraffreddore della nonna, uccidi, uccidi. Infine un'altra Daniela, ho ricordo quando andavo a scuola 3 giorni alla settimana, mia amica la sera si faceva un trattamento all'uovo sui capelli. Quindi un coté di rimedi della nonna, ma abbiamo degli ascoltatori, tra cui Ugo, che non è d'accordo sulla linea di questa trasmissione. Ugo, buongiorno. Buongiorno Nicolette. Non è che non sia d'accordo sulla linea della trasmissione, uccidiamo i rimedi della nonna, ma salviamo quelli scientificamente provati. E beh, qui è una biologa in studio apposta per... Io nella mia attività di veterinario ne uso alcuni che sono stati scientificamente testati, soprattutto nelle università americane, guarda caso. Facciamo degli esempi, perché ho sentito parlare di ferite curate con il liquame delle concimaglie, quindi... No, assolutamente no. Le ferite si curano con lo zucchero, che è il miglior disinfettante che esista in natura, e sfido chiunque ad affermare il contrario. Piaghe infette, perdite di sostanze, inferite di lunga data si curano benissimo con lo zucchero e con il miele, soprattutto con lo zucchero, così come le congiuntiviti. Sì, io sono d'accordo, probabilmente, no guardi, non voglio mettere in dubbio quello che lei dice, anche perché non ho strumenti, poi sentiamo... Ma c'è tanto bene quella bottiglietta con la croce sopra che compro in farmacia con scritto disinfettante. Funziona molto di meno. Costa molto di più e offende molto di più l'organismo. Sì, sì, non voglio. Doriana Rodino, scusi, fermiamoci un attimo. Doriana Rodino, su questa cosa dello zucchero al posto del disinfettante. Io in realtà qualche dubbio ce l'ho, ecco, soprattutto perché sappiamo benissimo che molti batteri si nutrono di zuccheri e quindi direi che forse è un farli proliferare, è un dargli da mangiare piuttosto che un mandarli via, ecco. Però io non lo farei. Non ha mai visto, io credo che la signora non abbia mai visto muffa sulla zuccheriera. Io come? Sfido chiunque a tenere, se ha mai visto della muffa nello zucchero. Della muffa su, cioè nel senso che lo zucchero ma stiamo parlando, stiamo parlando di funghi o di batteri che sono, signora, due cose la ben prego, diverse? Lei sta benissimo che è un termine semplificativo la muffa, cioè i batteri non vivono sullo zucchero, non possono viverci per motivi osmotici. Guardi, e la zuccheriera non si contamina, si mai chiamano... Guardi, se no, guardi, stiamo, no, questa non è una trasmissione con un taglio scientifico medico. Nicoletti, non la volevo mettere su questo piano. No, infatti, sì. Solo dire. Lei ha detto la sua, la biologa le risponde, però gli dice che lo zucchero non è un rimedio scientifico per le ferite. Ma no, chi l'ha detto? Si legga le pubblicazioni delle università. Insomma, vabbè, senta, lei fa il veterinario, mi scusi, si occupa dei suoi animali, lasci parlare alla biologa di altre cose. Buongiorno. Alberto. Sì, buongiorno, buongiorno Nicoletti. Ora, combinazione, sono veterinario anch'io, guarda. Sì, scusi che ho risposto in maniera, però di fronte agli estremismi. La professionalità dei veterinari oggi dovrebbe andare un po' oltre lo zucchero, secondo me. Comunque chiudo qua la questione. Sì, andiamo avanti. Io in realtà chiamavo per ricordare il ricordo della mia nonna che usava per le flittene, per le afte in bocca in sostanza, che è un'affezione spesso di origine virale, no? Queste piccole bolle che fanno malissimo. Sì, sì. E lei ci costringeva a metterci del sale grosso, del sale fino sopra, dopodiché ci versava il succo di un limone. E funzionava? No, non funzionava per niente. E oltretutto, poi studiando la chimica, che ho dovuto studiare per purtroppo laurearmi. No, anche perché l'afta è un'affezione frequente e mortale per molti animali, quindi. Sì, si parlava di afte umane, sì, sì. Le mie, in pratica. E acido cloridrico in pratica si forma quando lei mette l'acido citrico del limone insieme al sale, che è cloro di sodio, si forma citrato di sodio e acido cloridrico, per cui fa semplicemente malissimo e non succede niente. In sostanza l'afta rimane in profondità e la mucosa della bocca si brucia, fa male e basta. Rimedio assolutamente inutile. Sì, anche perché nelle farmacopee familiari, se scendiamo ma nemmeno tanto, di un secolo circa, si usavano i ferri arroventati per cauterizzare le ferite, quindi penso che non è sempre questa tradizione orale familiare per linea nonnesca possa essere realmente presa come qualcosa di scientifico. Erika. Buongiorno, io ho una variante dell'etamaio assolutamente priva di basi scientifiche e portata avanti da mia nonna che era una contadina lombarda. Applicata sulle sue tenere carni di bambina? Sì, io avevo 5 anni, 6 anni, per cui la nonna si ascoltava e c'erano i letamai che oggi non ci sono più, per cui non l'ho più riprovata dopo. E io avevo una sorta di verrucchina su una gamba, no? Allora la nonna mi ha detto di prendere della cotenna di lardo, anche queste non si trovano più, non è facile trovarle, per cui con questa cotenna di lardo bisognava andare verso il letamaio scegliendo una strada. Arrivati davanti al letamaio bisognava spiegare con la cotenna di lardo la parte, questa parte malata, poi recitare una formula in milanese che più o meno voleva dire brutto male, vattene via da dove sei venuto e non tornare mai più. No, bisognava fare prima il giro del letamaio. Dimenticato, cioè letamaio era il sancta sanctorum della casa, perché... Sì, esatto, cioè bisognava fare il giro del letamaio, cioè fregare, recitare la formula, buttare la cotenna dentro al letamaio, sì, e ritornare indietro rigorosamente dalla parte opposta rispetto a quella dove si era andati, così il male non poteva inseguirti, essendo un po' stupido, no? Naturalmente funzionava. Beh, io possiedo tuttora una cicatricina dove c'era questa cosa sulla gamba, perché lei non ci crederà, ma è andato via, per cui base scientifica zero, ma base pratica la cosa ha funzionato. Doriana Rodino, io guardi, ho dei sensi di colpa per coinvolgerla, ma però è lei che ha dato il là. Noi andiamo fino in fondo negli argomenti che affrontiamo e non ci fermiamo assolutamente di fronte a nulla. Su questa sorta di rimedio quasi stregonesco del pellegrinaggio intorno all'etamaio con la fetta di lardo, può aggiungere qualcosa? Ma io dico che è una ritualità, che una tradizione forse proprio da conservare soltanto a livello di rito, però a livello scientifico ho veramente molti dubbi. Su no, sul che grasso o sulla successo. Ferita probabilmente non lo so, forse tutto è una sorta di ingrassatura della ferita, forse su questo c'è qualche base. Ma chissà terapeutica. Che cos'era, perché la signora dice che era una verruca, non era una ferita, chissà. Sulle verruche poi, guarda, io sapevo dei rimedi, no, era questa per gli orzaioli attorno agli occhi, con un ago, con l'olio, con... mi ricordo che nelle mie terre umbre facessero qualcosa, ma non voglio sconfinare nella stregoneria, voglio fermarmi alla scientifica maniera che avevano le nonne per martirizzare i nipoti sotto il pretesto di far loro del bene. Carla, buongiorno. Cosa le faccia fare sua nonna? Urinare sulle ferite. Oddio, se la ferita è sulla schiena è un po' più difficile. È un po' più difficile, ma era più per i maschi, diciamo. Vabbè, anche i maschi non è che hanno un brandeggio a 360 gradi, guardi. Mio marito ha sempre detto che quando si faceva male o in una gamba o in qualche parte del corpo, comunque la raccoglievano e poi la mettevano sulle ferite. Perché si diceva che era acida e andava bene a curare le ferite. Queste cose fa parte delle storie di avventure di pirati che sentiamo da ragazzini. Melog 2.0. Per una pelle che ha bisogno di essere nutrita, schiacciate con una forchetta un quantitativo uguale di papaya e mela farinosa. Aggiungete qualche goccia di limone e amalgamate. Applicate sul volto e lasciate agire per un quarto d'ora, dopodiché lavate con acqua fresca. Se invece la vostra pelle è un po' appassita e stanca o acneica, mescolate la polpa frullata di mezza papaya e il succo di mezza arancia. In caso di una pelle più matura, l'impasto va fatto con papaya, un cucchiaio di miele e il succo di un limone. Per pelli grasse, la papaya va invece unita allo yogurt bianco magro. Per questi quattro diversi trattamenti, l'impasto va steso con un pennello sul viso, massaggiando con i polpastrelli dal basso verso l'alto per far penetrare i principi attivi della papaya. Questo rimedio della nonna è tratto da Naturale Bello, il libro curato da Doriana Rodino per Sironi Editore, che La scienza dei rimedi naturali di bellezza. Mi scrive Pierluigi che da ragazzo sua madre gli spiaccicava la crusca in faccia come rimedio contro i brufoli. Poi quando lui è cresciuto la mamma gli ha confessato che se l'era inventato questo rimedio, non sa perché incruscava il figlio brufoloso. Doriana Rodino, nel suo libro comunque mi sembra che un margine fondamento scientifico c'è in questi rimedi, non quelli paradossali che vengono dal nostro pubblico, ma quelli che via via lei ha analizzato. Sì, sì, devo dire che infatti io sono la curatrice, i tre autori hanno appunto fatto delle ricerche sulla letteratura pubblicata indipendentemente, quindi stiamo parlando di ricercatori indipendenti, non che lavorano per industrie cosmetiche, farmacologiche o erboristiche, e questi ricercatori indipendenti hanno proprio dimostrato la effettiva efficacia dei principi attivi contenuti nelle piante, ma come dicevo già prima, ecco, sono tutti esperimenti fatti con concentrazioni talmente elevate di principio attivo che poi non sono quelle che uno si ritrova in casa propria o nella crema, difficilmente si arriva ad avere le stesse concentrazioni che hanno dimostrato la loro efficacia in vitro o in laboratorio. Ecco, diciamo, se vogliamo dare una parola di speranza e di lenimento a chi è stato massacrato da generazioni di crudeli nonne, nel libro curato da Doriana Rodino ci sono delle persone che scientificamente sono applicate, guardando la letteratura, i ricettari, le tradizioni, a vedere cosa c'era di buono. Qualcosa c'è, ma se non ho capito male, in concentrazioni così diluite che non è paragonabile a un farmaco studiato e testato. Sì, esatto, esatto. C'è anche da dire che comunque queste cose qua, insomma, se uno se le vuole fare a casa, liberissimo, e diciamo che i rischi non ne corre. Ecco, certo non si deve aspettare un miracolo di avere una pelle meravigliosa dopo essersi fatto la maschera alla papaya. La può avere per 2 o 3 ore, insomma, avere un effetto transitorio sicuramente, un effetto temporaneo e anche piacevole, soprattutto di prendersi un po' di tempo per se stessi, ecco. forse la vera ricetta naturale di bellezza è la possibilità di avere un po' di tempo per fare un po' di tempo libero per se stessi. Beh, noi scendiamo ancora una volta, perché ahimè questa è la nostra missione, nel girone infernale delle vittime di nonne crudeli. Serena. Sì, buongiorno. Nell'attesa. Lo dica tranquillamente, senza timore, si sentirà meglio, sì, dopo. Cosa le faceva sua nonna? No, io sono tornata indietro piacevolmente alla mia infanzia e sinceramente non l'ho mai vista e non la vedo tuttora come una nonna stregona, bensì come una saggia. Tant'è una dei tanti rimedi di mia nonna era ogni volta che io cadevo, quindi mi procuravo dei lividi, lei mi faceva mettere del lardo, del vero lardo, all'epoca si ammazzava il maiale in casa, quindi il lardo di maiale con un po' di carta gialla, quella da macelleria, sopra al lardo un paio di giorni e veniva assorbito il livido. Era carina lei quando andava a scuola con quelle gambettine fasciate di carta gialla e lardellate, comunque se funzionava. No, la toglievo io, la rimettevo poi quando rientravo da scuola. Guardi, io ho ammazzato il maiale a casa mia per parecchi anni, non è che questo lardo profumasse, aveva sempre quell'odore un po' rancidino, che quindi no, qualmente... però da piccoline si sta a casa, si gioca nell'aia, quindi non vedevo, non trovavo nessuna difficoltà. Tra l'altro mi veniva alla mente tanti altri rimedi per i quali accadevano delle cose molto particolari. Fuoco di Sant'Antonio, come si curava? Come? Con il fuoco di Sant'Antonio. Il fuoco di Sant'Antonio, per esempio, mia madre lo ha avuto, ha provato anche la cura scientifica con i medicinali, non è riuscita a mandarlo via. E quindi? E quindi ha chiesto a mia zia, la quale qualche anno prima aveva avuto il fuoco di Sant'Antonio, se la poteva aiutare. Mia zia si è bucato con un ago un dito e con il suo sangue è andata a toccare il punto in cui mia madre aveva questo fuoco di Sant'Antonio. È andato via. È andato in via. Pochi giorni. Applicazione di sangue di persona che ha già passato il fuoco di Sant'Antonio. Grazie Serena, poi sentiamo la nostra biologa in studio, Lina. Eccomi qua. Buongiorno. Vada al punto. Cosa le faceva fare sua nonna? Allora, mia nonna, quando io ero bambinetta piuttosto irrequieta, un giorno mi sono slogata una caviglia e siccome stavamo in un paesino disperduto lì, l'ospedale era lontano, la nonna mi ha fatto praticamente un'ingessatura con la stoppa, conosce la stoppa? Sì, quella per accomodare i tubi che perdono. Bravo, bravissimo. E con la chiara dell'uovo sbattuta. Quindi la nonna mi ha fatto praticamente un gambaletto. Ma mica si induriva la chiara dell'uovo una volta? La chiara dell'uovo secca, quando si è seccata, non ha fatto altro che aderire perfettamente a questa stoppa e quindi si è formata un'ingessatura. E quindi l'ha ingessata. Santa donna, Giuseppe. Sì? A lei cosa faceva sua nonna? No, niente, guardi, era una specie di fuoco di Sant'Antonio che non veniva mai da bambino. Io adesso ho 46 anni, le parlo quando frequentavo le scuole elementari. Anche lei usava il sangue, cospargesse di sangue? No, niente di tutto questo. Non andava mai via. Allora, dopo che mia mamma mi ha portato dal medico, fa mia nonna, guarda che gli può passare solamente se gli sputa qualcuno che ha attraversato lo stretto di Messina. Ah beh, certo, è naturale, dimenticato. Non lo so perché, ma ha funzionato. Ha trovato uno che... Cioè, ha messo un annuncio era sul giornale. Padre. Ah, suo padre aveva passato lo stretto di Messina, gli ha sputato addosso. Sì, mio padre era andato, mi ha fatto questa cosa. Quindi anch'io avrei questo potere, essendo andato più volte in Sicilia e passato lo stretto. Ma il problema è che gli è presentato la stessa cosa a mio figlio. Io adesso ho due figli. E gli ha sputato addosso. Al maschio, sì, una cosa del genere. Mia moglie si era preoccupata e faccio io, aspetta un attimo che ho questo tipo di sentore di esperimento che mi è capitato a me. Gli ho fatto lo stesso rito e gli è passato. Adesso non lo so se è basi scientifiche. Beh, certo, ci saranno sicuramente le basi scientifiche. Doriana Rodino, io vedo che ho un po' forzato la mano, però partendo dalla credenza assoluta nel rimedio della nonna, si arriva allo sputo del transeunte per lo stretto di Messina. È davvero incredibile, io questa cosa non l'avevo mai sentita. Posso ancora cercare di trovare una spiegazione scientifica al passaggio di sangue sopra una ferita che può, che ne so, mi vengono in mente una sorta di vaccino. che sì. Però insomma anche quello ha i suoi rischi. Ma sullo sputo non c'è proprio possibilità? Sullo sputo insomma mi sembra davvero un altro rito come il giro intorno all'etamaio. Beh, questa mattina abbiamo compiuto un'operazione di avanguardia artistica della quale mi prendo tutte le responsabilità, abbiamo forse ucciso o dato perlomeno una ferita gravissima a quelli che sono i rimedi della nonna e ne vado fiero. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.